Pronto Matteo? Ciao, come stai? Bene, bene, bene. Sento un po' male, però sto bene. Che lavoro fai, Isabella? Consulenza finanziaria? No. Aziendale. Consulenza aziendale, sì. La segretaria, ovviamente. Ok, sei segretaria, non si può dire per cosa, però sappiamo che vivi a Roma, giusto? Cioè, abito in un paesino vicino a Roma, lavoro a Roma, faccio la pendolare. Che paese è? Si chiama Campagnano. Campagnano, ok. Che ovviamente non conosco, però è semplicemente che mi piacciono i nomi dei paesi piccoli, Isabel, tutto qua. Ho questa perversione. Okay. Senti, com'è sta tuo fratello Norbert? Beh, Norbert si trova bene, penso che la sua vita ha avuto una ridimensione, credo che si dice. Perché quello che aveva in testa da giovane, da fare da grande, le è cambiato radicalmente, perché la testa comunque era un'altra quando è uscita, quindi ha fatto altre cose, non penso che non ha fatto quello che avrebbe voluto, ma non sta male, sta bene. Quanti anni ha Norbert adesso? Norbert ha 58. E che lavora ancora o è in pensione? Sì, fa il direttore di un ospedale. Ah, dove? A Buenos Aires? No, sempre nel mio paese, in Entre Ríos, in provincia di Entre Ríos. È tornato, è stato un po' a Buenos Aires, quando è uscito, ha studiato, ha fatto una mini laurea e poi è tornato in paese, si è sposato. Senti, tu quando è che sei venuta in Italia? Nell'89. E sei venuta per lavoro, per amore? No, per amore. Per amore, che sono i due motivi per cui ci si sposta. Dov'è che l'hai conosciuto tuo marito? Nel senso che è ancora tuo marito adesso? No, non lo è più. va bene. Ma è già superato. Questo trauma è andato. Almeno questo trauma è superato. Sì. Queste si superano meglio, più velocemente. Immagino di sì. Ma come l'avevi conosciuto? Beh, era una... che ne so, l'ho conosciuto là perché si è fatto un viaggio in Argentina e l'ho conosciuto là e poi ci siamo trasferiti qua. Senti, quindi l'Italia è il tuo paese adesso di fatto oppure ti senti Dopo 22 anni sai, praticamente la metà della mia vita, ma ancora mancano 5 anni e ho fatto metà e metà. Però sì, mi trovo bene insomma. Ma senti, quando torni, quante volte torni in Argentina? Non molto perché... Costa molto anche emotivamente, quindi non è facile tornare perché ho tutti gli affetti là e quindi dopo anni che stai qua cominci a metterti delle protezioni, credo si dice corazze. Sì, certo, delle corazze. Cioè, quindi metti corazze, poi che non so, non è che ti dimentichi, devi dimenticare perché altrimenti non metti radici da nessuna parte. Perché non hai in mente di tornarci in Argentina? Beh, da vecchia forse, da più vecchia forse sì, perché non avendo figli non avrò chi mi cura, la vecchietta qua. Senti, invece rispetto a quando sei partita e ad oggi, sì. Com'è l'Argentina oggi e com'era allora? Quali sono se dovessi pensare a due o tre cose che sono radicalmente cambiate, radicalmente diverse? Beh, la cultura senz'altro, perché la cultura era molto sviluppata, ma quando io sono venuta qua era il momento migliore della cultura argentina, perché come era stata bloccata dai militari quando nel 83, credo che era, è tornata la democrazia, la cultura è esplosa, certo. E quindi è stato, penso che di aver vissuto il miglior periodo della cultura argentina a tutti i livelli, ma poi la cultura argentina a me dispiace che non sia conosciuta qua, ma è molto molto ricca, in tutti i livelli, cinema, musica, e quello adesso è un po', ho sentito, perché adesso in questo periodo ho ripreso un po' i contatti perché avevo messo un blocco, credo che adesso sta rifiorando un'altra volta la cultura argentina, però ci sono un po' di problemi a livello politico che bloccano, no? Sì, però economico anche, immagino. Sì. Economicamente penso che si stava un po' meglio allora, credo. Adesso è un periodo particolare. Senti, quando è che ci torni? Hai già in mente per l'anno prossimo. Senti, invece poi ti lascio andare davvero, perché immaginarti in bagno, in ufficio, mi dispiace molto. Radio 24 l'ascolti tutta? L'ascolti a pezzi? L'ascolto da da Alessandro Milan alle 7:20 fino a un po' di La Fanzara, l'ascolto Vabbè, tutto il giorno proprio, 20, tutto 24 ore al giorno. il giorno. Isabelle, senti, io ti ringrazio davvero ancora tanto per il tuo racconto e la tua telefonata.